Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Sono stati consumati fiumi d'inchiostro per raccontare il legame a doppio filo tra due grandi musicisti. Da Puškin a Stendhal, questa storia fatta di stima, genio, rivalità e ripicche ha originato decine di versioni. Il suo fascino è in equilibrio tra vero e fazioso, tra aneddoti riportati dalle cronache e interpretazioni personali, ma resta intatto attraverso i secoli. Ecco perché anche noi, a Destini Incrociati, vogliamo appassionarci al destino che unisce Wolfgang Amadeus Mozart e Antonio Salieri. Wolfgang Amadeus Mozart e Antonio Salieri. Vienna, seconda metà del 1700. Maria Teresa regna sul trono d'Asburgo con il suo primogenito maschio, l'imperatore Giuseppe, che senza consultarla non può prendere alcuna decisione. Anche se sono entrambi moderni e riformisti, molto spesso la pensano in modo diverso, soprattutto rispetto alla politica interna. Matrona di polso, strizzata in corpetti sempre troppo stretti per il suo fisico abbondante, ma anche madre amorevole, Maria Teresa indirizza verso il loro futuro tutti i suoi figli, 10 sopravvissuti dei 16 partoriti. La femmina più giovane è Maria Antonia, che passerà alla storia come Marie Antoinette, la regina di Francia ghigliottinata durante la Rivoluzione francese. L'amicizia tra l'Austria e la Francia deve essere cementata da un matrimonio. La mia figlia minore, Antoine, sarà regina di Francia. La corte di Francia non è come Vienna. Ascolta attentamente i consigli dell'ambasciatore Mercy. Avrai tutti gli occhi puntati su di te. Il padiglione per la cerimonia di consegna è costruito appositamente a cavallo del confine tra le due grandi nazioni. Entrata da suolo austriaco, uscirete su suolo francese come delfina di Francia. Prendete commiato dal vostro seguito e da tutto quanto è austriaco. La corte di Versailles è molto diversa da quella asburgica. Se la prima è opulenta e frivola, la seconda è decisamente più sobria, attenta alla cultura, sebbene non manchino neanche a Vienna lusso e feste. Alla residenza di Schönbrunn, 1441 stanze, nelle calde giornate estive, è piacevole passeggiare a piedi e a cavallo per i giardini freschi e perfettamente curati. Ma anche nel grande complesso di Hofburg, centro della vita dei sovrani, c'è da restare a bocca aperta per i pavimenti intarsiati in legno, i soffitti stuccati, gli enormi camini e gli specchi. Quando nel 1780 la regina Maria Teresa muore e Giuseppe II diventa unico imperatore, comincia a legiferare in funzione dello stato di benessere che si ispira alle teorie illuministiche. Impone la soppressione della tortura, attua l'abolizione della schiavitù ereditaria dei contadini, già avviata da sua madre, colpisce con le imposte anche la nobiltà fino a quel momento esente e protegge con forti dazi industria e commercio. Misogino e introverso, educato e sempre silenzioso, si è sposato perché costretto, ma poi a sorpresa si è perdutamente innamorato di sua moglie Isabella di Borbone. Lei, bellissima, fragile, malinconica, ha accettato il matrimonio, ma intrattiene anche una relazione appassionata di certo epistolare, forse anche carnale, con sua cognata, Maria Cristina. È uno degli indicibili segreti di corte. Se a Versailles il pettegolezzo è un puro piacere quotidiano, a Vienna Maria Teresa ha sempre preteso morigeratezza nelle spese e nelle parole. Nella corte asburgica non si tollerano stupidaggini e scherzi infantili, né discorsi equivoci o maldicenze. Entrando in chiesa va portato il più grande rispetto e non bisogna lasciarsi incuriosire e perciò distrarre. Tutti gli occhi saranno puntati su di voi, non date dunque scandalo. Confrontata alla vanitosa e modaiola Versailles, la corte asburgica di Giuseppe II, che segue un'etichetta rigorosa, è sobria. L'imperatore, supremo sovrano del mondo cattolico, ha lasciato gli appartamenti di Stato quasi disadorni, quando grazie alle ricche collezioni avrebbe potuto arredarli in grande stile, per darsi un'aura di modestia. Eppure a Hofburg c'è tutta la nobiltà che conta. Le casate più prestigiose vengono invitate ai banchetti e ai balli indetti dal re e tutti usano le grandi occasioni per fare politica e affari. A pranzo, ogni portata è accompagnata da un vino diverso e la velocità del servizio non consente mai agli ospiti di finire quello che c'è nel piatto. I matrimoni si combinano in base all'opportunità e ogni attività è regolata da cerimoniali ben precisi. Il sovrano ha la garanzia di uno spazio privato, mentre per le altre stanze l'accesso è più o meno lecito a seconda del rango di appartenenza. Cultore della pittura, Giuseppe II fa inserire nella boiserie bianca e oro delle pareti grandi i paesaggi svizzeri e dell'Italia settentrionale. La sala delle lanterne, che funziona da anticamera, conduce alla grande galleria, un salone per le feste dalle dimensioni imponenti, con enormi finestre, scandito da colonne corinzie con capitelli dorati, mentre sul soffitto svettano lampadari in cristallo. L'immagine devota e laboriosa degli Asburgo viene affiancata da un coté intellettuale. A corte, per intrattenere il sovrano in piacevoli conversazioni sempre lanciate da lui in prima persona, vengono di volta in volta invitati ospiti illustri dalla mente brillante, scienziati, artisti, generali, uomini politici. Il maestro di cappella, invece, responsabile della musica nelle cappelle di corte, è una presenza fissa. Stipendiato dal signore, non è un libero professionista, ma affida a lui la sua sopravvivenza economica. D'altra parte, la musica a Vienna ricopre un ruolo fondamentale. Il maestro austriaco Florian Leopold Gassmann entra nelle grazie di Giuseppe II a partire dal 1763, quando si reca a Vienna per prendere il posto di compositore del balletto di corte. L'imperatore, dai gusti raffinati, colpito dal suo talento, lo nomina presto anche compositore da camera e, con l'approvazione di sua madre Maria Teresa, gli affida la gestione delle cappelle. Gassmann ha studiato in Italia e ha un'assidua frequentazione con Venezia. La sua attività operistica è iniziata proprio con la messa in scena di Merope al Teatro San Moisè durante il Carnevale del 1757. Sempre per il Carnevale, il compositore ha scritto un'opera all'anno, fino al 1762, con molti dei libretti firmati da Carlo Goldoni, tra carri allegorici, maschere da commedia dell'arte ed eccessi, per la Serenissima è questo il momento più trasgressivo. A descriverlo è lo stesso Goldoni. Qui la moglie e là il marito. Ognuno va dove gli par, ognun corre a qualche invito, chi a giocar, chi a ballar. Nel 1766 il maestro Gassmann va a Venezia per sovrintendere la messa in scena della sua opera Achille in Sciro. È in questa occasione che incontra per la prima volta l'appena sedicenne Antonio Salieri. Se il talento precoce del giovane musicista lo colpisce immediatamente, la sua umanità fa sì che gli si affezioni come un padre con un figlio. Gassmann chiede a Salieri di andare con lui a Vienna. Neanche a dirlo, il ragazzo accetta con entusiasmo e durante il viaggio gli racconta la sua storia. Legnago, provincia di Verona. Quando Antonio Salieri viene alla luce il 18 agosto del 1750, la piccola città fortificata posta sulle rive dell'Adige sta ai confini con il Ducato austriaco di Mantova, sotto il dominio della Serenissima. La famiglia Salieri è piuttosto abbiente. Papà è un commerciante di granaglie che fa affari in tutta la zona e la loro casa, dalle dimensioni rispettabili, si trova poco lontano dal teatro comunale che oggi porta il nome del grande compositore. Francesco, il fratello maggiore, potendoselo permettere economicamente, si sposta a Padova a studiare musica presso il celebre violinista Tartini. In poco tempo riesce a diventare un clavicembalista e violinista apprezzato e impartisce le prime lezioni ad Antonio, che gli chiede di prepararlo anche in canto. Antonio, che è ancora un ragazzino, rivela subito il suo grande talento e comincia a pensare a quello che poi verrà sintetizzato nel titolo di una delle sue opere più celebri. Prima la musica, poi le parole. La morte della madre avviene nel 1763. Poco dopo è la volta del padre, che lascia i giovani Salieri sgomenti. Oltre al dolore che cresce, cambiano radicalmente le condizioni affettive ed economiche dell'intera famiglia, tanto che Antonio e Francesco si trasferiscono prima a Padova e poi a Venezia, dove Antonio viene ospitato dal nobile Giovanni Antonio Mocenigo, un conoscente del padre che se ne prende cura come se si trattasse di suo figlio. Quello dei Mocenigo è un casato prestigioso, che detiene diverse cariche importanti presso l'amministrazione dello Stato e le corti europee. Il giovane talento legnaghese si ritrova così immerso in un ambiente culturale pieno di stimoli e ricco di opportunità. Ancora adolescente, Antonio Salieri ha già rivelato il suo grande talento per la musica. Canta, compone, suona violino e clavicembalo. Dopo la morte dei suoi genitori, vive presso il palazzo del nobile Giovanni Antonio Mocenigo, grazie al quale ha accesso alle frequentazioni più colte e altolocate di tutta Venezia. Ecco perché, quando il maestro Florian Leopold Gassmann, compositore presso la corte asburgica di Giuseppe II, arriva nella Serenissima per sovrintendere la messa in scena della sua opera Achille in Sciro, Salieri può incontrarlo e fargli sentire di cosa è capace. Siamo nel 1776 e Antonio, convinto con facilità da Gassmann ad andare con lui, parte alla volta di Vienna. L'impatto con Hofburg è sconvolgente. Servitù, saloni da ballo, strumenti preziosi. Gassmann è come un Virgilio settecentesco. Accompagna il suo pupillo per le stanze della residenza e lo introduce alla vita di corte. Lo educa personalmente, insegnandogli contrappunto, composizione, latino, tedesco, francese. Salieri, cresciuto in una famiglia benestante ma non aristocratica, impara tutto ciò che è necessario per far parte del bel mondo. Viene aiutato da una sua naturale predisposizione al bello e partecipa alle conversazioni sui temi più disparati. Profondamente convinto che anche l'insegnamento sia una forma d'arte, mette tutto se stesso nell'indottrinamento ai giovani e presto conquista la benevolenza di molti frequentatori dei salotti, nonché la stima dell'imperatore Giuseppe in persona. Siamo nel 1770 e Antonio Salieri ha soltanto 20 anni quando compone l'opera Le donne letterate. 4 anni dopo, alla morte del maestro Gassmann, diventa suo successore. La correggente Maria Teresa lo ammira così tanto da dargli l'onore di inaugurare con l'opera Europa riconosciuta il nuovo teatro fatto costruire a Milano, La Scala. La musica scritta per i francesi, che sono più attori che cantanti, è invece sempre troppo povera di canto per gli italiani, che sono più cantanti che attori. Protetto dall'imperatore e in ottimi rapporti con il compositore Gluck, il librettista Metastasio e il grande pianista Haydn, Salieri divide serenamente le sue giornate tra la scrittura di nuove opere e l'educazione di giovani talenti. Tra i suoi allievi più importanti ricordiamo Süssmayr, Beethoven, Schubert, Hummel, Liszt, allievi che senza eccezioni avranno parole di lode per il maestro italiano, dedicandogli spesso opere importanti. Salieri, riflessivo, cauto, non è ambizioso, come raccontano molte interpretazioni storiche, anzi, è insofferente alla superficialità e sempre disponibile. Dai suoi studenti pretende impegno e serietà e organizza le lezioni con estremo perfezionismo. Il tempo dedicato all'insegnamento, tuttavia, non lo rende un autore meno prolifico. Produce moltissimo, dalla musica da camera alla musica sacra, senza dimenticare le opere liriche all'italiana. E allora perché Salieri non è uno dei grandi nomi della classica che tutti ricordiamo? Se si chiede a un appassionato medio di citare qualcosa di Salieri, è facile che cada nell'imbarazzo. Perché Salieri è passato dall'avere la più grande ammirazione nel suo tempo all'oblio della storia? Perché il suo destino è indissolubilmente legato all'incontro con un giovane di Salisburgo, il grande Wolfgang Amadeus Mozart? 3 cose sono necessarie per un esecutore: l'intelligenza, il cuore, le dita. Salisburgo, 27 gennaio 1756. Al numero 9 di Getreim de Gasse, Leopold Mozart, compositore per l'arcivescovo e insegnante di musica, e Anna Maria Perlt, figlia di un prefetto, festeggiano la nascita del loro bambino, a cui danno un nome lunghissimo: Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Papà, per comodità, lo chiama semplicemente Wolfer, ma presto per tutti diventa Amadeus, colui che è amato da Dio. Pignolo è incline allo scherzo. Per esorcizzare la sua insofferenza nei confronti delle desinenze us dei suoi nomi, Mozart firmerà alcune delle sue lettere come Wolfgangus Amadeus Mozartus. La sorella maggiore Anna Maria, detta Nannerl, è l'unica sopravvissuta degli altri 7 figli che la coppia, molto attiva nella vita culturale austriaca e citata nelle cronache come una delle più belle coppie dei salotti, ha avuto. Tutti e due, Nannerl e Amadeus, prendono lezioni di musica dal padre, un maestro severo che non ammette trasgressioni alla disciplina, ma se la ragazza è brava senza spiccare, Amadeus rivela fin da subito un talento raro. A 3 anni batte i tasti del clavicembalo, a 4 impara un minuetto in mezz'ora, a 5 compone un intero concerto. Ha una memoria prodigiosa e il dono dell'orecchio assoluto, vale a dire la capacità di riconoscere con certezza una nota musicale anche ascoltata una volta sola. C'è un aneddoto in proposito. L'11 aprile 1770, un Mozart ancora quattordicenne si reca con suo padre a Roma, dove durante il Mercoledì Santo nella Cappella Sistina ascolta il Miserere, un'opera di Gregorio Allegri basata sul Salmo 51 della Bibbia. Il brano è talmente sacro che il Papa ne ha proibito la trascrittura e ha ordinato che qualsiasi riproduzione fuori dalla Cappella Sistina venisse punita con la scomunica. Ma il genio di Mozart non si ferma davanti a nulla. Dopo aver sentito il Miserere una volta sola, torna in albergo, china la testa sulla scrivania e lo trascrive interamente a memoria. Leopold, incredulo, scrive alla moglie quello che ha fatto loro figlio. A Roma si sente spesso parlare del famoso Miserere, tenuto in tanta considerazione che ai musicisti della cappella è stato proibito, sotto minaccia di scomunica, di portarne fuori anche una sola parte, copiarlo o darlo a chi che sia. Noi però l'abbiamo già. Wolfgang l'ha trascritto a memoria. E se non fosse necessaria la nostra presenza al momento dell'esecuzione, noi l'avremmo già inviato a Salisburgo. Infatti, la maniera di eseguirla conta più della composizione stessa, e quindi provvederemo noi stessi a portarla a casa. Tutta Roma e persino il Papa stesso sa che l'ha trascritto. Non c'è assolutamente niente da temere. Al contrario, l'impresa gli ha fruttato un grande credito. La scomunica è annullata e tutta l'Europa presto conoscerà il giovane genio di Salisburgo. A Destini Incrociati stiamo facendo un viaggio nel cuore della musica di fine Settecento. Alla corte dell'imperatore asburgico Giuseppe II è arrivato uno stimato compositore che diventa presto sia maestro di cappella che insegnante dei giovani talenti. Si chiama Antonio Salieri. Nato a Legnago, Verona, e cresciuto dopo la morte dei suoi genitori presso il palazzo del nobile Giovanni Antonio Mocenigo a Venezia, è entrato in contatto con i nobili di tutta Europa e si è fatto apprezzare a Vienna per la sua capacità di essere un autore prolifico e di altissimo livello. A Salieri, che inaugura con la sua opera anche la Scala di Milano, i contemporanei danno il massimo credito, ne fanno un musicista di successo. Ma la sua fortuna scenderà parallelamente all'ascesa di un giovane di Salisburgo. Il suo destino cambia per sempre e oggi sembra impossibile parlare di Salieri senza farlo uscire perdente dalla sfida con Wolfgang Amadeus Mozart. Quando si tratta di beffarmi di qualcuno, non posso resistere. Mozart è un genio precoce e come tale ha una personalità dalle mille sfaccettature, strafottente ma malinconico, incline allo scherzo ma così ossessionato dalla ricerca di affetto da chiedere costantemente a chi gli sta intorno se gli voglia bene, indisturbato fisicamente dai suoni impuri e dalle stonature. È per questo che odia la tromba. Un giorno, come terapia d'urto, il padre lo chiama vicino a sé e ordina ai maestri di suonarla. Alla prima nota il piccolo impallidisce e stramazza sul pavimento, costringendoli a smettere. Ben conscio della fortuna che la sorte gli ha dato come figlio, papà Leopold molla tutti gli incarichi e porta Amadeus a esibirsi in giro per l'Europa. A Parigi il piccolo, che ha solo 7 anni, si dedica soprattutto allo studio dell'organo. Ne coglie immediatamente la tecnica e i segreti e gli basta muovere le dita sui tasti per dare l'idea di un organista maturo. Questo suo virtuosismo sbigottisce un anno dopo la corte inglese, alla quale i Mozart giungono nel 1764 per fermarsi sino alla metà del 65. Seguono 3 lunghi viaggi in Italia, durante i quali Amadeus conosce i più grandi musicisti. La nostra musica da chiesa è assai differente da quella d'Italia e quando dice la messa il principe stesso non ha da durare che al più lungo 3/4 d'ora. Ci vuole uno studio particolare per questa sorta di composizione e che deve però essere una messa con tutti strumenti, trombe di guerra, timpani, eccetera. Sicuro di sé e sostenuto da suo padre, Amadeus è convinto di avere ancora ragazzino l'Europa in pugno, ma non è così. A Napoli, capitale musicale del periodo, la proverbiale scaramanzia partenopea indica nell'anello che Mozart porta al dito l'origine del suo genio e lo costringe a toglierlo. Ma, aneddoto a parte, il giovane non viene considerato granché. Nessuna scrittura nei teatri, nessun concerto e un re Ferdinando IV di Borbone che non lo riceve se non in una visita di cortesia alla reggia di Portici. Stessa delusione a Milano, dove Mozart spera di essere nominato compositore di corte, ma viene liquidato con un secco no da Maria Teresa d'Austria. quella stessa Maria Teresa d'Austria che ha appena perso la testa, artisticamente parlando, per Antonio Salieri, accolto con infinita ammirazione al punto di affidargli l'inaugurazione della neonata Scala di Milano, dove debutterà la sua Europa riconosciuta. Spirito giocoso e aspetto apollineo, il giovane Mozart non deve aspettare di essere grande per prendere familiarità con il linguaggio musicale del suo tempo. Le prime sonate che scrive a Parigi e a Londra, i cui autografi mostrano chiaramente un aiuto da parte di papà Leopold, sono ancora piuttosto infantili, sia nel modellare le note che nella tessitura musicale. Ma le sinfonie dell'Aia, invece, attestano la veloce e originale influenza che ha subito Mozart incontrando i colleghi di tutta Europa. Ecco perché, ai molti che non lo prendono troppo sul serio, il talento di Salisburgo risponde con parole decise. Pensano che, essendo piccolo e giovane, da me non possa venire niente di grande. Geniale e scapestrato, senza dubbio affascinante, nel passaggio dall'infanzia alla giovinezza, Amadeus cambia completamente. Se da bambino era ubbidiente e rispettoso nei confronti di tutti, soprattutto di suo padre, poi diventa un uomo molto meno regolare e abitudinario, che non pensa più soltanto alla musica, ma si concede ai piaceri della vita, tra cui il biliardo e le donne. Gli esercizi occupano sempre meno momenti del suo tempo. Per comporre preferisce le prime ore del mattino, dalle 6 alle 10, e lo fa comodamente sdraiato a letto. Sbriga i compiti come qualcosa di cui liberarsi, e poi comincia a divertirsi. Naturalmente non tutti i giorni sono uguali. Su di lui veglia una forza inspiegabile che hanno in pochi, l'ispirazione. E quando questa arriva bisogna seguirla. Lo ricorda Stendhal, grande ammiratore e studioso del musicista, che ne ha scritto Vita di Mozart. Amadeus fu sempre incostante nel modo di lavorare. Quando era ispirato, nessuno sarebbe riuscito a strapparlo alla sua creazione. Se lo distoglievano dal pianoforte, componeva in mezzo agli amici e finiva per passare notti intere con la penna in mano. In altri periodi la sua anima era così ribelle all'applicazione che non riusciva a ultimare un pezzo se non nel momento stesso in cui era costretto ad eseguirlo. Pare per esempio che una delle sue overture più riuscite, quella del Don Giovanni, sia nata proprio così. Dopo un'intera notte di lavoro precedente al giorno della prima rappresentazione, quando gli orchestrali si ritrovano costretti a leggere a prima vista le partiture finite non più di 5 minuti dall'inizio dello spettacolo. Ma diventare grande per Mozart non significa soltanto lavorare in modo diverso e avere moti di ribellione nei confronti dell'autorità. Anche il suo corpo non è più lo stesso. Nato da genitori bellissimi, lui invece non è né elegante né ha un aspetto piacevole. Il suo volto sembra riuscire ad assumere soltanto due espressioni, sofferenza e piacere. Si muove continuamente, gioca con le mani, oppure batte il piede per terra, insomma, non riesce proprio a star fermo. Le mani sono il cruccio che lo tormenta. Sono perfette per suonare, ma impossibili da usare per ogni altra attività quotidiana. A tavola Mozart si fa tagliare le pietanze perché non ci riesce, e se ci prova diventa goffo e imbarazzante. Deve intervenire perciò sua moglie, Costanza Weber, con la quale avrà nel tempo 6 figli, 4 dei quali morti prematuramente. Mozart, cresciuto in una famiglia solida e unita, è attaccato alla sua, ma questo non gli impedisce di lasciarsi andare a frequenti scappatelle. Provocatorio e con una grande faccia tosta, già in una delle sue numerose visite alla corte di Vienna, ancora ragazzo, aveva cominciato a suonare rivolgendo apprezzamenti a una graziosa Maria Antonietta, arrivando a chiedere in moglie quella che di lì a poco sarebbe diventata niente meno che la regina di Francia. Un rapporto ambiguo, come quello con le donne, Mozart ce l'ha anche col denaro. Ne riceve molto, ne conserva poco, tanto che ai suoi figli, dopo la sua morte, non resterà alcuna eredità. Quando si dice genio e sregolatezza. Sono un giovane che può sbagliare, come tutti, ma a mia consolazione posso dire che magari lo facessero tutti così poco come me. Forse voi sul mio conto immaginate cose inesatte. Il mio difetto principale è che, in apparenza, non agisco mai come dovrei. Abituato ai lunghi viaggi per l'Europa e alla frequentazione con la corte di Vienna, dove Antonio Salieri gode di infinito rispetto, quando sua mamma muore, Amadeus torna a Salisburgo. La città ormai gli sta stretta e provinciale, non può offrirgli nessuno stimolo. Già organista presso la corte arcivescovile, se volesse potrebbe prendere il posto di suo padre e diventare direttore di cappella. Ma a lui il posto da stipendiato, a cui tutti ambiscono, non interessa. Vuole essere un artista libero di comporre, dimostrando in questo modo di essere un vero figlio del suo tempo, in un mondo che si sta preparando alla rivoluzione francese. Per via di questa sete di libertà, i litigi con papà Leopold diventano sempre più frequenti e ancora più netti sono i contrasti con l'arcivescovo di Salisburgo, von Colloredo. Decidere chi ha ragione non è facile. È vero che Colloredo non ha mai capito di avere a che fare con un genio, ma è anche vero che Mozart era solito fargli richieste di licenze straordinarie via via sempre più lunghe, venendo dunque a mancare al suo incarico. E così un ultimo diverbio con Mozart che se ne va sbattendo la porta segna la rottura definitiva. Adesso finalmente Amadeus può tentare di realizzare il suo sogno, fare il musicista libero presso la corte di Maria Teresa e Giuseppe II. Ma rubare il posto a Salieri non si rivelerà così facile. Enfant prodige in grado di riconoscere una nota al primo ascolto, nato a Salisburgo e cresciuto suonando in giro per le corti di tutta Europa, Mozart è quello che si dice genio e sregolatezza. Ha rifiutato di diventare direttore di cappella per l'arcivescovo Colloredo, rinunciando a uno stipendio fisso perché sogna di fare il musicista. Il luogo giusto per farlo sembra essere la corte moderna e illuminata di Vienna, dove Salieri è ormai da anni uno stimato compositore e insegnante. Non so scrivere in modo poetico. Non sono un poeta. Non so distribuire le frasi con tanta arte da far loro gettare ombra e luce. Non sono un pittore. Non so neppure esprimere i miei sentimenti e i miei pensieri con i gesti e con la pantomima. Non sono un ballerino. Ma posso farlo con i suoni. Sono un musicista. Dopo aver ricevuto già un secco no dall'imperatrice Maria Teresa, a Mozart serve un modo per far notare la sua bravura. L'occasione arriva con la commissione di un'opera, Idomeneo, ossia Ilia ed Idamante, che dovrà essere rappresentata a Monaco. Compositore irregolare, sempre in preda agli umori e all'ispirazione del momento, Amadeus si getta nel progetto con entusiasmo e ottiene un successo trionfale, tanto che vengono disposte numerose repliche. Intanto muore Maria Teresa d'Austria e lascia come unico regnante d'Asburgo suo figlio Giuseppe, già coreggente con lei al trono. L'arcivescovo Colloredo, fino a poco tempo fa datore di lavoro di Mozart, parte da Salisburgo alla volta di Vienna per assistere ai funerali. E ad Amadeus viene un'idea. Può fingere di andare anche lui a Vienna per scusarsi con Colloredo dopo averlo salutato sbattendo la porta e intanto tentare di farsi assumere da Giuseppe II. Il piano è perfetto, ma non va a buon fine. Anche questa volta la corte asburgica, già soddisfatta dell'operato del prolifico e professionale Antonio Salieri, non assume Mozart, che continuerà comunque a rimanere a Vienna e a comporre musica, anche se in modo non regolare. Il destino di Antonio Salieri e Wolfgang Amadeus Mozart è indissolubilmente incrociato. In costante equilibrio tra la stima e la rivalità, il loro rapporto ha alimentato leggende e aneddoti che si sono tramandati attraverso i secoli. Se in vita Salieri gode del massimo apprezzamento dei contemporanei, dopo la sua morte, datata 1825, il suo talento viene dimenticato. Tutto il contrario di Mozart, figura controversa dalla genialità non sempre capita nel suo tempo, che diventa, dopo l'improvvisa morte a soli 35 anni, nel 1791, una vera e propria icona della musica. Probabilmente il primo a istigare Mozart contro Salieri è il poeta Giovanni Battista Casti, rivale di Lorenzo da Ponte, librettista delle mozartiane Nozze di Figaro. La prima messa in scena dell'opera è un colossale flop. Non piace né al pubblico né all'imperatore. Mozart incolpa Salieri di avere boicottato l'esecuzione, ma Salieri in realtà è in Francia. Non solo, sebbene alcune fonti abbiano insistito sulla gelosia dell'italiano nei confronti dell'austriaco, è documentato che al contrario Salieri abbia proposto di occuparsi lui stesso della riedizione delle Nozze di Figaro. Le leggende, si sa, si autoalimentano e tra un equivoco, un fraintendimento e un'interpretazione troppo arbitraria è nata una diceria montata ad arte secondo la quale Salieri avrebbe addirittura tentato di avvelenare Mozart. Nulla di più lontano dalla realtà. Ma il fascino di una lotta intestina alla corte viennese ha ispirato e nutrito l'immaginario di molti artisti nei secoli a venire, tanto che oggi il nome di Salieri, un apprezzatissimo musicista della sua epoca, viene quasi sempre associato a quello di Mozart in un modo che davvero non rende giustizia alla sua lunga carriera. Il poeta e scrittore russo Aleksandr Puškin scrive nel 1830 Mozart e Salieri, un brevissimo dramma in versi da cui il povero Salieri esce come un invidioso assassino. Ecco perché, in merito all'opera, si è detto che se Salieri non ha ucciso Mozart, di certo Puškin ha ucciso Salieri. Nel 1984, il dramma di Peter Schaeffer, Amadeus, che ha già conquistato i teatri di Londra anni prima, viene portato al cinema da Miloš Forman. I lati negativi di Salieri vengono ammorbiditi, ma la vicenda, falsata dalla storia, è sempre la stessa. Il genio di Mozart, del quale lo stesso Salieri era stato uno dei primi a rendersi conto, si è rivelato al mondo soltanto dopo la sua morte. E non sono state le leggende a gonfiarlo. Il destino di Salieri, invece, una vita virtuosa passata a comporre da quelle stesse dicerie, è stato rovinato. E quando il suo amico e compositore Ignaz Moscheles va a trovarlo all'ospedale, ormai cieco, in punto di morte, Salieri prova per un'ultima volta il riscatto che tutti ancora oggi gli dobbiamo. Benché questa sia la mia ultima malattia, posso in assoluta buona fede assicurare che in quell'assurda diceria non c'è nulla di vero. Voi lo sapete, Mozart l'avrei ucciso io, e invece no, cattiveria, nient'altro che cattiveria. Ditelo voi al mondo, caro Moscheles, ve l'ha detto il vecchio Salieri, che fra poco morirà. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.